Sing, sing, sing, sing to the Lord, sing all the earth, praise his name, praise his name. Canto Iaunari, canto Veria, canto, canto Iaunari, canto Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari. Canta Iaunari, canta Iaunari, Iaunari, canta Iaunari, canta Veria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari. Benedicite nomini eius, annunciate diem de die, salutare, salutare, salutare eius, salutare eius, salutare, salutare, salutare eius, eius, eius. Canta Iaunari, canta Veria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, canta Veria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, Iaunari. Canta, canta Iaunari, canta Iaunari, canta Veria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari.